pensassi di durare non lo so. Nausea, rabbia, stress, rap e rollo. Ah, la mia testa è un campo minato, con te che ci passi dentro volando. Io sul divano pensando in compagnia, fumando tra la tirannia mirando. Un passo e spacco, un altro e sbando. Ah, sono un re in cerca di regina. Tu sei qui ma non sei mia, volendo posso averti, ma sei solo un bastardo che non può amarti. Lo sai io quanti danni già fatti, e lo so che tu non cerchi guai, pieno di rimorsi per non aver fatto certi discorsi. Sempre gli occhi rossi, sempre a capire, ma non siamo mai stati pronti. Lo scrivo nel testo, vediamo se lo ascolti. Io vedo solo storti, tutti mi stanno addosso stalking, credendo che sono io il king. Sono solo il contrario di Kong King. Non mi rimane che scrivere testi anche senza un perché. Dici non resti, non sono giusto per te. Scrivo solo testi, scrivo solo testi, scrivo solo testi. Mi dici di stare rilassato, se no causo danni come un furto in un supermercato. Desiderio forte a volte sottovalutato, cuore chiuso in una cassaforte come in un blindato. Meglio come Alcatraz nelle celle scordato, anche se ci guardiamo solo mi sento fortunato. Volo come una fenice sotto, vedo tutto deserto, tutto bruciato. Non sono infelice, lo sai il motivo, uguale alla sfinge ricordato all'infinito. Persiste questa voglia di essere un dio, ma poi capisco che è stato inutile perché sono rimasto solo io. Molti soprannomi iniziano con bio, ci sono tanti gruppetti, 10 persone ma risultano un trio. E non manca certo tipo stile mio. Non mi rimane che scrivere testi anche senza un perché. Dici non resti, non sono giusto per te. Scrivo solo testi, scrivo solo testi, scrivo solo testi. Non mi rimane che scrivere testi anche senza un perché. Dici non resti, non sono giusto per te. Scrivo solo testi, scrivo solo testi, scrivo solo testi. Non guardarmi per quello che sono, il mondo non sta cambiando, è lui che cambia me. Vivere nella realtà, tra la strada, con i miei fra, la più malfamata. Invece tu, rilassata, esco pazzo per il cash, guardo te. Io perché sto per diventare ateo, perché ora ho scoperto che il Dio che mi guidava se n'è andato. Come la parola angelo e diavolo, due cose differenti ma con le finali uguali. E io in mezzo e dici perché non ti difendi. Non siamo tutti uguali, i gusti sono differenti. Classica tipa che indossa solo Fendi. Non mi rimane che scrivere testi anche senza un perché. Dici non resti, non sono giusto per te. Scrivo solo testi, scrivo solo testi, scrivo solo testi.